volevo solo portarti a vivere sotto i ponti lustrati di diamanti e di benzina, farti regina del macello. Portarti a ridere, nei parcheggi a pagamento, così avrei capito che le tue risate hanno un prezzo. Spiaggia mentiva giù nel parco, non rispondeva ai miei discorsi, e le pareti guardavano fisse, e noi eravamo le nostre risse. E io ti promettevo i sassi, io ti promettevo i sassi, che i nostri cuori più degradabili son freddi come i ghiacciai. Io ti promettevo battisti, dolci amari, giradischi. Resuscitiamo i tempi morti, diamo la caccia ai fantasmi, che i nostri cuori più degradabili, sono freddi come i ghiacciai. E io ti promettevo gli astri, le luci e gli incidenti. Io ti promettevo battisti, dolci amari, giradischi. E io ti promettevo gli astri, le luci e gli incidenti. E io ti promettevo battisti, dolci amari, giradischi.